vibrazioni in ostaggio in un viaggio che volta al termine, in cui si rivolge alla gente dalla mente fertile. Praticamente metto in pratica tecniche, riporto pensieri sotto forma di lettere. Con la colore dalla penna e macchia un foglio che assorbirà nel tempo a testo fatto in un momento. È un lamento di orgoglio che non si trattiene, gela il sangue nelle vene e porta il buio delle sere. Tra le pare poi mi spoglio per vedere che comunica vere. Mi rimane il rap con cui mi evolvo e volgo l'attenzione dove semino, così a tempo debito i miei frutti li colgo. Output sul finale dal gradiente sull'oscuro, lascio tutto e torno al grigio di ogni giorno e son sicuro che i segnali audio che rincorro portano all'uscita, che è una porta disegnata da un pittore sopra un muro. Sicuro che ci sbatti e non ho torto, impari se ti sbatti e non solo se ci batti contro e per contro. Non ha serratura, la chiave è vibrare per passare queste mura. B1